questa. Ok, passo. Nulla. Lasciatemi. Non è un canale qualsiasi, datevi una regolata, dai, su, possiamo mettere. Ho preso il pezzo di merda. Piccolo 1, 2, 3, 3, pronto, pronto, faccio chiudo, pronto, pronto, fai un segno di mano se ci sei, qualcuno. Graziano, ci sei? Sì, ci sono. Fa cuccia giù. Perché, oh? Sono scemo a te. Comportati bene, invece, vai. Hai qui il pezzo di merda. Perché se ti taccia, poi te lo posso mangiare su pochi trucchi, a te. È una ritirata, ti sei vecchio. Poi ti vengo lì alla tenoce e te lo faccio mangiare quei walkie-talkie, scemo, hai capito? Ma non ti chiedi di parlare, perché non ti comporti bene? Non c'è manco chi c'è dietro la radio, stai attento come parli. Dove sei bimbi minchia, ragazzi, avvicinate. Oh, brother, mettimi la faccia. Ebbè, Luca! Beh, un po' di picciunnaia, no, che grazia. Un po' di picciunnaia, beh. Boh, io non so come fanno a prendere queste cose, questi... Boh, non lo so, io non ho parole, bravo. Adesso vi penso i diti, mi metto la divisa e vi arrosto tutti. Basta farvi dall'innanza, sai, boh, basta metterli da parte e si parlano da soli. Ah, ho sentito anche come ha acceso la voce. Ah, sarà l'amica di Gozzo, di Vittorio. No, non credo, Vittorio mi bani, cioè per come l'ho conosciuto io, poi non lo so, eh. Magari gliela pressato, se sono giugheti. Adesso vengo lì e vi taglio il dito a tutti quanti. Capito, mia Peppinella, il dito ti taglio. è bello, non c'è nessun altro. Sapevo, questo per l'asilo, beh, non sei contento. Ti devono più bene ore, da puttini. Tanto ragazzi, che mi va a parlare che si non servirà a nulla. Ma infatti, convinto davvero so. Che poi magari sono in dentro, con un ciaffo che ha il cappotto di tutti i denti. Oh, per carità, va. Va, cacciaffo, è così trozzi, e li vedi purenni. Sono stravaganti pure, ma li vedi che erano scusa. Ma come ho capito non sanno, cioè, grazie. Non sanno manco quello che hanno in mano. E tu fa la succia, dilli che gli tagli la gola adesso che vai a cercarli. No, non dico così del genere, grazie, assolutamente. Però loro devono capire che per parlare qua bisogna pagare una tassa. Perché se li trova la polizia postale, allora la multa, io penso che i genitori dovranno lavorare per pagarsi la multa. E allora? Ma magari gli erano investigati a rubare, poi ci sono più grelli. E per giù a rubare, i genitori passano casini. Scusa, mica loro. Ma anche loro, perché non lo possono usare. Come la paghiamo noi, la tassa la dobbiamo pagare anche loro. E soprattutto non devono disturbare. E allora, non hai inteso, cambiamo canale. A che li cuffa a tempo, gli va a seguire, ma ti va a vedere lui. E non si capiscono tra di loro, capisco. Ma infatti, basta cuffa a calle e buonanotte. Evidentemente adesso che stiamo parlando, non si comprende tra di essi. Infatti la gente dice, io cambiamo canale. E lascia il canale, cambiare il canale, fottitini. Ehi, ragazzi, viva la gulimacchio, per carità. Ehi, basta parlare, ci va a caso, qui. Ho finito 5 minuti fa di farmi l'aereo zo. Qua, c'è una bitorra a cucchiere, E anche io c'ho un po' di tosse, grazie, leggermente, dai. Poco a poco, a colpo, però non più come prima. Anche io ce l'ho così, però certe volte mi viene a rasura che si colpi di giusta, proprio farò a fugenni, così mi viene all'improvviso. No, ce l'ho anche io lo sciroppo, quello bisolfolo, cosa si chiama. Ho capito, sì, vabbè, c'è buono quello. Ma ci mangio quasi vinto che c'era un po' vista. Poi c'ho gli spruzzi, c'ho anche lo spruzzo quello al cortisone, il discus, c'ho lo spruzzo, quello normale, il discus, quello è al cortisone. Non va bene. Ma mi rimane un paio di ore quando mi spruzzo quello. E poi mi si dovrà assarrare tutto. Ne ho comprato ieri anche il bicchio di quella spruzzo, invece ce l'avevo. E mi ho usato anche quello, vedi, mi viene così, però adesso più ora passa e più mi va, mi si intanso alla zura. Ho capito, vabbè. Però io uso i Vixinex, quello lì già staffa, dai, a voglia. Sì, vabbè, poi dipende se c'hai, come si dice, se c'hai congestione nasale, allora è un casino. No, non ho congestione nasale, ma io per il fatto che non respiro bene per via dell'ossigeno che c'ho, già sono molto male così. Quando mi bizzicheggia appena lì da così, tu sai, presa mi bizzicheggia subito ai polmoni, infatti mi intendo le spalle all'interno bruciando, mi sa mi dovrà pigliare antibiotico. Siamo gli amici di Vittorio comunque qua. Vabbè, siete amici di Vittorio, dovete comportarvi bene. E Vittorio lo sa, l'abbiamo detto anche a lui. E Vittorio già lo sa, già. Adesso quando entra stasera gli pesto i diti a Vittorio. E se non è andata a pagarsi la tassa gli tiro anche il collo. Senti amici di Vittorio, lui sa benissimo il comportamento qua. Troppe parolacce, non va bene. Non sono un santo, attenzione, però non va bene, perché alla fine bisogna essere, insomma, più educati, no? Che sia così, forse, di volte e forse. Vittorio lo sa, a me mi conosce anche di persona, mi conosce. Ok. Se volete parlare non c'è problema, basta essere educati e noi vi facciamo parlare, non c'è problema. Giusto, grazie, bene, sono andato. No, fermo! Scusa, è un altro ritardato. Ma Vittorio dov'è? Qua vicino a me, però il suo walkie-talkie è spento. Comunque, guarda, ne abbiamo parlato con lui di persona e gli abbiamo spiegato un po' come funziona qua. Perché non è una frequenza così, questa è una frequenza che adoperano anche radioamatori, volendo. E bisogna essere un po', insomma, non è un giocattolo, ecco, ho detto papale papale, non è un gioco. E da Vittorio che lavoro faccio io, lui lo sa. Ah, tanto non si ricorda. Già si ricorda cosa faccio io, diglielo, già lo sa. Già lo sa. È bello! È bello! Vittu! Ciao Lu! Ma cos'è tutto casino, boh? Allora uno ha detto parolone di parolaccia, ha detto non so cosa è. Dice che sono amici tuoi. Ma fare il cazzo, non sono neanche professionale. No, ma dico, hanno detto che sono amici tuoi. Bravo. Capito, è Vittorio. Hanno detto che sono amici tuoi. No, non sono amici. Ha detto sono amici di Vittorio, poi non lo so. Così vero, ringraziato. Ehi, è vero, vero, adesso sto venendo lì, aspetta, aspetta. Dammi l'oggi. Parla giù. Vieni di una pericchia, ma vieni di giù. Diglielo tu, Luca. Bene, che dice formaggio. Ollu, non sente nessun altro. No, negativo. No. Io sono appena rientrato, sono usciti presto. Sono andato a fare una commissione, poi sono andato a fare la spesa. E sono rientrato 10 minuti fa. Eia, ma oggi lo sento anche male a Vittorio, tutto in mezzo alla guerrebbe. Ma per il danno, no, mi dicevi. Non lo sento proprio anche adesso. A che modo, Vittorio? Si sente, guerrebbe, lo senti tu, Luca? Aspetta, grazie, che devo preparare un po' di sugo, non ci serve per domani, lo faccio con la salsiccia. Ehi, l'ho fatto l'altro giorno, buono. Preparalo. Già sono qua, ma accendiamo la 27. Ma lì c'è freschito, capito? C'è freschito, grazie. Faccio questo sugo, poi vado a farmi una sciacquata. E poi magari già sono qua, comunque già è acceso qua, Una prolunga non sarà buffa, boh, te lo porti lì. Pronto, di dove siete voi? Sì, Mi senti? Sono Vittorio. Vittorio! Grazie, ci sei. Vittorio. Pronto? Cuffo! Pronto? Pronto? Oh, Vittorio, dove sei? All'oratorio. Dove sei? Senti, Lu, mi senti? Rispondimi un attimo su Messenger, perché ti devo parlare di una cosa, Lu. Non posso toccare il telefono perché sto cucinando, Vittu. Ehi, Lu, vai tranquillo. Comunque, per raccontarmi di questi qua, stiamo rispedendo le parolacce, poi me li arrangio io, che non devo passare casini per loro. No, io gli ho detto solo di comportarsi bene, come l'abbiamo detto a te, ma stavo dicendo a loro, solo che continuavo a dire parolacce, e non va bene. Ah, io ti dico una cosa, se li trovano con quella radio li passano un po' di casini, e tu sei benissimo, te l'abbiamo già spiegato, no? Beh, è ovvio, lui, anzi, a me fa anche piacere chiacchierare, ma non poi vengo a sapere che poi ti rispondono male con le parolacce. Tu poi quello dimmelo sempre, io c'ho sempre gli apparecchiature accese, cosa pensi che non li sento? Ah, io spegnete malattie, che non lo rimodulare. Sì, non sentivo stare tanto adesso, se mi trovo a questo qua, io non vi dico niente. Questo è stato detto adesso, se vi trova sono cavoli amari, Ciao, buonasera. Sì, dico, vai tranquillo, Lu, tranquillo. Ciao, Tino. Boh, cosa hanno i compresi a te, Ciao, sono in Italia, sono i polacci, però loro non si rendono conto. Non sanno chi c'è dietro alle radio, capito? Vabbè, glielo stavo dicendo pure io, Luca, perché non so perché c'è gente che conosco io in queste apparecchiature e ti permette anche di dire le parolacce, se smettile e basta, non cercare perché puoi anche disturbare il canale, no, fino a dire parolacce. Tu lo sai che purtroppo, bisogna comportarsi bene, perché non sapete mai chi c'è dietro una radio, tu puoi dire tutte le parolacce che voi magari poi vi trova e poi cosa fate, è così, non sapete mai chi c'è dietro la radio, mai. Poi sono piccolino, basso e corto io. Infatti io gli ho detto anche cose, ho detto smettila, perché c'è gente che sta anche parlando e mi mette a disturbare. Tu sono amici tuoi, Vito, poi vedi tu, non so cosa dirti. Alla fine io le responsabilità non me le prendo, se le prende chi si comporta male? A me non me ne frega niente. Ciao, Briga, sono preso per essere solo scaldato. Graziano, ci sei? Voi Graziano per avere qualche ricetta particolare. Cosa? Non ho capito, scusi. Allora, lui è lo chef. Ah, per quello. Il suo compagno che lo stavo facendo per ora, per essere solo andati. Infatti sono bassi in bassi, quindi in che zona sono? Qua, la latte dolce. Sì, se vi stavo facendo per ora, ci sarei solo già andato. Non dire le parolacce perché non sanno chi c'è dietro una radio, ma se li trovano dietro e per la cacca ci riprendono. Occhio che sbensaglio il cagnolino della latte dolce. Ti non ti ha sentito, ripeti. Cosa? Ho detto di stare attenti, sono sbensaglio il cagnolino della latte dolce. Ragione. Ma tu c'è ragione, sì. Fate da bravi, perché sono... Quindi è meglio fare attenti. Tu lo sai che io ti conosco anche di persona, so chi sei, no? Vittu, Dai, dillo, metti in riga, che si vede che sei una persona intelligente, metti in riga tu a questi amici tuoi. No, perché a me mi dispiace, perché se vi rispondono male, a me, mi incazzo. Allora, qua, Vittu, nel radio ci sono persone che tu non ti puoi mai immaginare, non sai mai come sono fatte. Non è che tu immagini che la persona sia così come pensi, no? Sono persone qua dietro la radio che non te lo puoi mai immaginare, poi te le trovi di fronte, e cosa fai? Cioè io parlo a te o agli amici tuoi, Io non so, ci rimango di stucco. come se lo vedono davanti. Domani mattina faccio man bassa latte dolce. Domani man bassa, polizia postale latte dolce. Adesso basta, Cambio basso, buonasera. Buonasera a lei. Sono maresciallo Pistis, domani mattina faccio man bassa latte dolce. Ma adesso sei in borghese però. Sì, adesso sono fuori servizio, ma domani mattina con la postale facciamo man bassa latte dolce. Faccio piazza pulita di questi ragazzini. Allora passa a casa a prendermi. Va bene, va bene. Prepari il caffè che domani mattina passo e poi rastrello tutto lì a latte dolce. Così imparano, perché non ho capito che queste sono frequenze serie, che bisogna comportarsi bene. No, passa a prendere anche a me e faccio la sirena io. Comunque, ciao Claudio, sono a me che non ti sento, mi hai sentito. Ciao Vittorio, buonasera. Ma io non capisco però, io a volte vi ascolto volentieri, ma non capisco come mai ancora ci possa essere questa gente che continua a comportarsi in questa maniera. Ho spiegato che queste sono frequenze molto molto serie, dove ci si comporta in una certa maniera. È libera tutti, tutti possono parlare, ma non c'è bisogno di dire parolacce, perché c'è un controllo più accurato, e quindi la gente deve capire che bisogna comportarsi bene. Cambio. Giusto, giusto, Claudio. No, vabbè, io da un paio di giorni che mi sento qua ogni giorno con i walkie-talkie, però molti... Però non va bene. Gliel'ho detto anch'io di non dire parolacce, perché anche io gliel'avevo detto, a me mi avevano detto cosa per questi apparecchiature. Guarda, parlo ogni giorno con voi, però... No, su quello non va bene, giusto. No, non dovete sempre mettere in mezzo a me, dovete dire quelli che hanno le apparecchiature. Perché gli ho detto anche, guarda, se ti ritrovano con quell'apparecchiatura, sono cavoli vostri. Allora, Vittorio, non so che ti mette in mezzo, so che uno ha detto che erano amici tuoi. Io cosa ne so, se uno si comporta male, no? E poi dicono che è amico mio, tu cosa fai? Lo chiedi a me. Ma quello è l'amico tuo, Io ti rispondo. Sì, no, boh, non lo so. Questi qua hanno detto che erano amici tuoi. Guarda, non c'è neanche bisogno che me lo dici, perché intanto si riconosce anche l'apparecchiatura. Si riconosce subito dal suono, invece l'altra è anche diversa. Ci sono anch'io, Ci sono io, 2-10 km. Adesso ti mando anche la foto, te li faccio vedere, per farti capire se io pure io, se voi dove entro pure io e mi metto a comportarmi male, ma siccome non mi nasce, no? E non lo faccio. Ma tu quanti anni hai che stai usando questa radio? Quanti anni hai? Io. Come? Io. Sì, tu quanti anni hai? Io. E non la puoi usare questa radio, tu non la puoi usare questa radio. Hai capito? Ma chi te l'ha data questa radio? Chi te l'ha comprata? Tu te l'hai comprata o tuo padre te l'ha comprata? No, non è mio. Non lo sento lui. Non è mio. Non la puoi usare questa radio, devi essere maggiorenne per parlare in queste frequenze, hai capito? Quello non è un walkie-talkie, ancora non hai capito che non è un walkie-talkie. È una radio UHF e non la puoi usare. Ma dimmi tu, roba la mattina, cosa sta diventando questo PMR? Veramente la vergogna sta diventando, Mamma mia, come sto. Va bene, divertite, Ciao Lugarie, ciao a te. Ciao anche a Vittorio, io continuo a fare quello che sto facendo, dai. Ciao a tutti. Oh, ci sentiamo prossimamente. Ciao, ciao, anch'io sono in corrente. Ti lascio mai che ruta, ciao a tutti. Ehi, ciao, ciao. A dopo. Graziano, ci sei? Come sta? Da, se ci sta ancora vi lascio anche io, comunque scusatemi per di tutto, la prossima volta eviterò di farglielo usare. Mi guarda, l'ho detto anche al prete di sequestrarglieli, quelli che stavano dicendo le parolacce, non esattamente le mie apparecchiature, perché le mie apparecchiature le uso bene. Comunque, adesso io gli ho fatto prendere le apparecchiature a posto, se non dicono più le parolacce, ok? Graziano, ci sei? Graziano! Ehi, aspetta! Aspetta che sono con la 27, aspetta! Luca, nella 27 ho acceso, tanti chi mi viene un caso! Che canale? Il solito, siamo! Siamo nessuno! Sto parlando io! Ah, adesso sì, dai! Che c'è? Voi? Io Gio Maria! Claudio, ci sei? Luca, hai copiato! Claudio, ci sei, Claudio, l'ascolto! Luca, è bene, ci sei nella 26! Beh, freddo in chimi, grazie, non ci rimangono! Entrata anche partiglia lì! Senta, perché non si fa una prolunga se non può finire fuori? Andai finito la pizza, come facevo io quando non c'avevo la pizza. Me lo portavo in salone, da cucina al salone. Poi quando facevo la piegata, Ma non ne ho capo, grazia. Da cameretta là ci vogliono almeno altri 10 metri, se non di più puro. È un bel lungo, ma lontano, poi devo trasportarmi l'alimentazione come pesante, ma non vi penso di manco molto. Cosa c'è lamentato ti Luca? Cosa c'è che ti stai lamentando? No, niente, Giovanni, non mi sto lamentando. Allora, grazie, ma ricambio il baracchino in camera, ma non ci penso nemmeno. Vabbè. Ma già ce l'hai anche lì lo stesso, già ce l'hai anche lì, no? Cameretta, Vabbè, se non puoi appoggiarti di lui. Io stavo facendo le prove 27 perché non mi funzionava bene, ho dovuto rifare un coso, uno spezzone, e sembra che sta uscendo bene adesso. Così che però era acceso il PMR, io sento un po' quasi quando stavate dicendo con quelle ragazze, capito? Ah, quelli maleducati qua. Questo qua dice la ciappani, passano i casinietti, a me non mi interessa. Ok. Un attimino. Fai Giovanni, già sono qua. C'è qualcuno? Ok, sta arrivando la polizia postale lì a latte docce, poi voglio vedere come vi comportate. Grazie, dimmi. Ma non è messo in camera da letto, non me ne frega niente, no, non è messo proprio, non ci sto manco pensando, guarda. Allora comunque Gio Maria si sta facendo male, gli era conformato Claudio, adesso guarda a vedere. Vabbè, parlate tranquillamente, se parlate un po' lì, Mario, ci parlate lì e domani se avete voglia parlate qua, no? A me non ci sono problemi, tranquillo. Io questo l'ho acceso al capallo funzionare un po', capi? Grazie, non c'è problema, tranquillo, già so qui in oggi. Nel caso magari oggi parlate lì e domani ci sentiamo qua. Fatele girare anche quelli. A me là non mi va, non mi piace. Comunque ciao, ciao Graziano, ciao Luca. Vabbè, ma non si mettere a piangere, qui tocca a coccolarti. E a me, e io. Sto quasi piangendo, mi poco ci manca, mi. C'ho una lacrima sul viso. Yeah.